Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Commenteremo, ma come dati, alcune dichiarazioni rese poco fa dal commissario Arcuri sulla dati numerici. Io ho detto tempo fa che i numeri hanno una testa dura, quindi è importante anche vedere i dati su come stavamo a marzo e come stiamo adesso. I nostri GR24 vi hanno già aggiornato sul Consiglio dei Ministri e quindi è anche sul voto e sull'ok alla Camera alla proroga dello stato di emergenza e il CDM con le misure ampiamente anticipate di carattere insomma più restrittivo che non riguarderanno gli esercizi commerciali, perlomeno per ora, speriamo mai, in primo luogo l'utilizzo della mascherina. Ma al di là di questo, oggi parleremo anche del fronte economico, diciamo così, del Covid, mi riferisco al Recovery Fund, perché è entrata nel vivo la trattativa tra Parlamento e Consiglio europeo sul prossimo bilancio comunitario. Ieri vi è stato via libera dei ministri delle finanze, un via libera politico alla bozza legislativa tutta dedicata al funzionamento del Recovery Fund. Al di là dei tecnicismi, dei formalismi, la cosa importante è capire a che cosa abbia portato la mediazione tedesca, sia perché è il paese che ha più capacità di pressione, mettiamola così, sui cosiddetti frugali o fregali del nord, ma anche perché la presidenza è tedesca dell'Unione Europea, il semestre di presidenza è quello tedesco. Poi torneremo a trattare i tre dossier che ciclicamente hanno bisogno di essere aggiornati perché non si sono ancora chiusi. I tre dossier per il governo sono in questo momento Ilva, Alitalia e Autostrade per l'Italia. Sono tre dossier completamente diversi, ovviamente, ma che andranno risolti, che non si possono trascinare. Oggi partiremo di nuovo con Alitalia perché si attende da questo punto di vista anche l'indicazione della Commissione europea. Devo dire che non sarà quello lo scoglio più grosso dell'Italia. Ieri è arrivata nei giorni scorsi la notizia anche di richiesta di cassa integrazione straordinaria lunedì per complessivi 6.828 dipendenti di Alitalia, SAI e Cityliner. È la nona procedura di cassa integrazione da quando c'è l'amministrazione straordinaria per Alitalia. Oggi sarà anche l'occasione per commentare in generale anche l'andamento del traffico aereo. A fine anno la IATA prevede un calo del 66% rispetto al 2019, con un peggioramento ulteriore rispetto alla precedente previsione, nel senso che poi il fatto che molti paesi, tra cui l'Italia, chiedono per chi arriva da Francia, per esempio, Belgio, il tampone sta limitando moltissimo gli spostamenti, non c'è nessun dubbio su questo, però da questo punto di vista e complessivamente ci sono anche notizie che riguardano non solo l'Italia, mi riferisco a EasyJet che ha chiuso le basi a Venezia e Napoli e riduce i voli. Per quello che riguarda invece l'apertura, parleremo anche dei casi di oggi, sì certo, ma ci occuperemo del settore del vino, perché in realtà sta cercando, noi andiamo ciclicamente sui vari settori, sta cercando ciclicamente di portare qualche manifestazione. Questa settimana a Milano, fra due settimane alcuni tentativi di incontro a Verona, sono saltate tutte le manifestazioni fieristiche anche nel mondo del vino, ma è un settore che sta cercando altri canali di distribuzione, mettiamola così, perché attualmente la chiusura dell'anno dovrebbe essere un meno 28%, soprattutto per il mercato fuori casa, meno 33% per tutte le categorie di food and beverage, e è un comparto, quello del vino vitivinicolo, che incide per il 10% sul totale della produzione agricola, per il 15% del totale dell'export italiano. Stiamo parlando di un giro d'affari di 10 miliardi di euro l'anno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, dicevo delle dichiarazioni rese poco fa dal commissario Arcuri. Ha parlato oggi a margine del convegno dei medici di famiglia, che è in corso a Villa Simius in Sardegna, e ha detto che entro ottobre contiamo di terminare la distribuzione dei 2,4 milioni di banchi monoposto acquistati. Sinora ne abbiamo distribuiti alcune centinaia di migliaia, anche se sappiamo che il ritardo c'è, e c'è in maniera definitiva. In Italia, ha aggiunto Arcuri, se ne producono 200.000 l'anno, la domanda quindi è 12 volte superiore alla normale produzione, si tratta di un'impresa ciclopica. Io non ho dubbi che l'impresa sia ciclopica, anche perché ce l'hanno raccontato i produttori di banchi in questo paese, e da questo punto di vista, però, quando dicemmo a fine luglio, inizio agosto, attenzione che non si può partire così tardi, era chiaro quello che sarebbe successo, e Arcuri in maniera indiretta conferma che se c'è una produzione di 200.000 banchi l'anno e sono stati chiesti 2.400.000 banchi, forse partire ad agosto è stato, no forse, senza forse, è stato troppo tardi se quello era l'approccio. Vedo adesso i dati nuovi sui contagi, non sono belli, ve li do in diretta, siamo andati sopra i 3.000 contagi, 3.678, 1.000 più di martedì scorso. Un incremento che non si registrava da metà aprile, il numero delle vittime cresce anche questo, 31 vittime, ed è tornato ai livelli di fine giugno. Su questo però è interessante anche il raffronto per quello che riguarda il confronto che fa Arcuri, perché Arcuri ha fatto notare che l'Italia era a marzo la seconda per contagi, adesso è la 18ª per contagi, e ancora per quello che riguarda i dati che ha diffuso Arcuri, allora il 21 marzo eravamo secondo paese, avevamo 793 morti al giorno, ieri erano 28, oggi sono 31. Sempre a marzo avevamo 6.525 posti in terapie subintensive, ieri sono 14.000. Facevamo a marzo 26.000 tamponi, ieri ne abbiamo fatti 100.000. E il risultato è che la Francia ha registrato 34.000 nuovi contagi ieri, la Spagna 23.000, la Gran Bretagna 11.000, l'Italia, il dato di ieri, ripeto, 2.677, cioè 15 volte meno che in Francia. Dobbiamo essere orgogliosi dello sforzo che abbiamo fatto. Questa è la dichiarazione di Arcuri, che ha anche aggiunto che entro ottobre appunto arriveranno, lui conta entro ottobre di terminare la distribuzione dei banchi monoposto, e ancora che siamo attrezzati per contenere la forza di un'eventuale seconda ondata pandemica, c'è però bisogno di rafforzare il territorio, perché durante l'epidemia la medicina del territorio è stata sotto stress e ha prodotto molte vite con comportamenti spesso eroici. Ancora sulle mascherine, dobbiamo essere orgogliosi come italiani, ha detto Arcuri, all'inizio della pandemia facevamo fatica a distribuire le mascherine essenziali nei luoghi di maggiore fragilità, oggi ne distribuiamo 11 milioni e in 18.000 istituti scolastici, e le produciamo tutte da sole, cioè quindi tutte in Italia. Chiaro che queste dichiarazioni sono arrivate prima dei dati, però è interessante, questo lo dico perché, ripeto, i numeri non hanno testa dura in ogni senso, è giusto fare il confronto anche con, ahimè, un confronto macabro con i morti di marzo e con i casi di marzo, perché è chiaro che, adesso non voglio fare l'ennesimo virologo di turno, è chiaro che probabilmente le terapie che sono state messe in pratica in queste settimane, in questi mesi, scusatemi, e anche il fatto, segnalano questo è l'elemento clinico che ci arriva, il fatto che tutti, essendo più sensibilizzati, si presentino in ospedale e segnalino i sintomi subito, sta migliorando l'approccio terapeutico. Questo sembra abbastanza chiaro. Poi vedremo, oggi la Scozia ha chiuso pub, bar e ristoranti in tutta la Scozia centrale, tra Glasgow e Edimburgo, nuova stretta anche a Bruxelles, i caffè e i bar chiuderanno da domani mattina per un mese. Il Belgio è il paese che in percentuale di abitanti ha il maggior numero di casi. Veniamo a notizie, sono anche queste notizie di carattere economico. Qua, sei mesi che stiamo discutendo e parlando dei danni che il Covid ha fatto soprattutto agli esercizi commerciali e al mondo dei servizi. Dicevo, andiamo avanti. Per quello che riguarda l'indagine Eurostat, segnala che nell'area euro i prezzi delle case comunque hanno fatto più 5% nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente. I maggiori aumenti si sono avuti nel mercato immobiliare del Lussemburgo, più 4,4%, Italia più 3,1%, Austria più 2,5%. In crollo invece i prezzi delle abitazioni nei paesi dell'est, meno 7% in Ungheria, Estonia meno 6%, Lettonia meno 2%, molto forti anche in altri paesi. La Commissione europea nel frattempo ha approvato la modifica di 3 programmi operativi della politica di coesione per l'Italia, mobilitando 1,7 miliardi di euro per sanità e ripresa economica. Venendo all'Italia invece, il dato di oggi sui consumi segna un buon dato ad agosto, un buon dato non solo a livello congiunturale, quindi mese su mese, e quindi più 8,2% le vendite a dettaglio ad agosto rispetto a luglio, in valore parlo perché il volume mi interessa meno, e soprattutto i beni non alimentari più 14% in valore. I beni alimentari più fermi, ma erano stati gli unici a crescere, diciamo, durante il lockdown, più 1,6%. La cosa interessante, dicevo, è che c'è una crescita anche rispetto ad agosto del 2019. Non è una grande crescita, ma voglio dire, è un più 0,8% nelle vendite a dettaglio anno su anno, sia per i beni non alimentari, più 1,1%, che i non alimentari, che fanno più 0,6%. Che gli alimentari, che fanno più 0,6% come valore. È in aumento anche il volume, più 0,5% la parte dei generi non alimentari rispetto all'agosto del 2019 e più 0,4% per quello che riguarda i beni alimentari anche sul volume. Comunque la notizia importante è che c'è una crescita nel valore dei consumi e delle vendite a dettaglio anche rispetto a un anno prima. Invece nel trimestre giugno-agosto, guardando questo dato, che poi è il dato che abbiamo sui consumi, nel trimestre giugno-agosto rispetto al trimestre precedente, l'aumento è del 22,8% in valore. Sono tornati gli acquisti su abbigliamento grazie ai saldi, e anche qui, ripeto, un mese non fa primavera, quindi è agosto su agosto, però il tendenziale l'anno su anno è importante. E l'Istat segnala che a settembre c'è stata una decisa ripresa dell'economia globale. Io spero che veramente che adesso invece le iniziative prese dai vari paesi europei non portino a una contrazione ulteriore o una nuova contrazione dell'andamento economico, oltre che del clima economico. Del stato di emergenza fino al 31 gennaio, prorogato dal Consiglio dei Ministri, abbiamo già detto, viene confermato, visto la polemica con le regioni, che le regioni potranno mettere in atto misure più restrittive, non misure più leggere, più soft. Obbligo le mascherine all'aperto, mascherine sempre nei locali chiusi, tranne che in casa. Le multe restano tra 400 e 1.000 euro, e viene prorogata al 31 ottobre il termine per presentare la domanda di cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all'emergenza epidemiologica, lo ha affermato il ministro al lavoro e politiche sociali Nunzia Catalfo. E poi c'è una ricerca interessante per quello che riguarda il mondo delle piccole e medie imprese, è la ricerca di Piccola Industria di Confindustria, praticamente sono il 90% in difficoltà per il Covid, quelle intervistate, e il 70% si trova in difficoltà finanziarie, 6 su 10 devono rimodulare la propria offerta e un'azienda su due intende puntare ancora di più sulla internazionalizzazione. Però sul fronte del digitale di pianificazione strutturata e partner solo 3 aziende su 10 si stanno attrezzando in tal senso, tant'è che il presidente della piccola industria di Confindustria Carlo Rubiglio ha detto digitale e green sono le sfide del futuro. Mi fate notare che non ho dato vedo moltissimi messaggi sui dati, ha sviscerato i dati della Francia. Poi ha detto un quindicesimo. No, guardi, ho citato quello che diceva il commissario Arcuri ieri, che ha detto sì, anche un quindicesimo, che ha detto la Francia ha avuto 35.000 casi, riprendo l'agenzia, e noi ecco 34.000 nuovi contagi, noi 2.600, 15 volte in meno. Sì, cioè, è 15 volte in più la Francia, va bene, dai. Però il dato è quello, cioè che oggettivamente poi la pressione che noi vediamo, numeri alla mano, sulle terapie intensive e le terapie subintensive, i ricoveri, non è così alta come marzo e aprile, però attenzione perché quando inizia a avere i numeri che ha la Francia, a Marsiglia, a Aix-en-Provence segnalavano e a Madrid il 34% dei letti già occupati, quindi bisogna stare attenti, per quanto mi sembri abbastanza ovvio, numeri alla mano, che non vi sia la stessa corrispondenza che c'era a marzo e aprile tra positivi e quanti di questi positivi vengono ricoverati. Ricorderete che la percentuale era altissima, c'erano molti meno tamponi, si facevano solo a chi era già molto sintomatico di solito, e avevamo metà delle persone che restavano in quarantena a casa, circa il 40% veniva ricoverati, di cui il 10% andava in terapia intensiva. È ovvio che i numeri sono molto diversi, perché sennò oggi, col dato di oggi di 3.600 casi, dovremmo avere sostanzialmente 1.500 persone ricoverate, e di questi 3.600, 360 terapie intensive in più. Adesso sto cercando un dato sulle terapie intensive, ma i numeri sono molto molto più bassi. Ripeto le spiegazioni che ho letto, come voi, da parte non solo dei virologi, ma dei medici, dei clinici. E quindi si arriva prima, ci sono terapie e procedure protocollate sicuramente più efficaci, e tutto questo riduce l'impatto sulle strutture. Comunque adesso andiamo, devo dare i mercati, poi andiamo rapidamente sul meteo, la pubblicità, e poi partiamo con il settore del vino, anche per, spero, alleggerire un po' visto il tema, non visto le cifre che ha il settore del vino stesso. Però allora facciamo una cosa, visto che mi segnalano in regia che bisogna dare la pubblicità prima oggi, diamo subito la pubblicità, poi mercati, vino, Alitalia e Recovery Fund. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Allora, 17.36 minuti, dovevo dare i mercati finanziari. Invariata Milano, meno 0.27, siamo alla chiusura a Parigi, più 0.17 Francoforte, e Londra invariata. Giornata piatta, piattina direi, Enel più 3.15, Ferrari più 2.80, Buzzi più 1.40, Diasorin più 1.40, CNH più 1, Interpump più 0,90, Moncler più 0,70. Fronte opposto, Nexi, dopo l'annuncio dell'operazione, realizzi meno 5,70%, con l'operazione con SIA chiaramente. Biper meno 4,20, Eni meno 2,70, Telecom meno 2,5 come Mediobanca, Banca Mediolanum meno 2,30, Unipol meno 2 come Fineco e Tenaris. L'1,90 lo perde anche Saipem e Italgas. Inuit meno 1,60%, A2A meno 1,30 come ERA. Allora, vedo molti messaggi, ma li posso anche capire sui numeri dei positivi di oggi, sul Covid e quant'altro, però insomma andiamo anche oltre. Qualcuno mi dice: dovresti mandare in onda prima l'Italia e poi il vino per dimenticare. Ormai la scaletta è così e la teniamo così. Ottavio Caggiano, direttore generale di Federvini, buonasera. Buonasera a tutti, se può essere d'aiuto solo per consolare . Ma anche per aiutare, sicuramente siamo sempre disponibili. Come sì, settore. Ma qui si parlava di bere più che di analisi. Allora, voi avete aperto, non voi, ma in generale il mondo del vino sta cercando di fare qualche manifestazione. Ne abbiamo commentato la settimana scorsa il mondo della moda, che pure ha cercato di fare parte in presenza, parte in digitale. La Fashion Week a Parigi, ho visto che invece si osa un po' di più, e invece a Milano si aprirà il 3 ottobre, si è già aperta l'11 ottobre la terza edizione della Milano Wine Week, che si svolge anche nei luoghi della moda, ma con 7 città collegate in rete con vari eventi in contemporanea, e cioè New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca. Noterete che sono tutti paesi che, a parte San Francisco, tutte aree in cui non si produce vino. A New York ho difficoltà a vedere una produzione di vino. E invece a Verona si terrà poi fino all'11 ottobre il Festival del Vino. Sono tentativi, mi passi il termine, per non perdere un contatto con buyers, fornitori e quant'altro, ma allo stesso tempo cercare di rispettare tutte le norme. La cosa che mi ha sorpreso sono le stime che anche voi avete diffuso, perché su un giro d'affari pari a 10 miliardi e mezzo di euro all'anno, con 13.000 persone impiegate e 310.000 imprese agricole, e 13.000 sono solo la parte indotto, da parte senza indotto, ora voi stimate una chiusura del 2020 a un meno 28%. Le dico perché mi ha sorpreso, perché insomma se c'è qualcosa che si è consumato anche durante il lockdown, e adesso il lockdown non c'è, è il vino. Ho capito che mancano gli stranieri, la domanda turistica straniera, però insomma gli italiani in vacanza in Italia ci sono andati. Un dato veramente forte, un terzo delle vendite dell'anno scorso. Sì, lo chiarisco subito. Come al solito dobbiamo mettere bene a fuoco il 100. Stiamo parlando del consumo fuori casa. Il meno 28 che stimiamo nasce dall'esame e dalla valutazione della situazione dell'Horeca in generale, cioè hotel, ristoranti, catering, ristoranti, ma soprattutto la ristorazione, e il flusso di turisti che venendo in Italia apprezzano l'agroalimentare e i nostri prodotti. Quindi quel meno 28 non è il dato generale stimato sulla maturato del settore, ma è di quel canale specifico, che è un canale rilevante per la parte medio-alta o per i prodotti premium del settore, perché normalmente la ristorazione offre vini di fascia medio-medio-elevata. Questo è lo scenario, e questo purtroppo è il dato che ci è stato rilevato e che monitoriamo mese per mese, perché la ristorazione rimane un canale privilegiato non solo in Italia ma anche all'estero, ed è questa la ragione per cui si tentano con tutte le sicurezze e tutte le cautele anche di riavvicinare i buyer, gli operatori, per un tentativo di far riattivare questo canale. Allora, sì, questo è importante che lei lo chiarisca. Mi resta un dubbio. È innegabile che il consumo del vino e anche, vale anche per la categoria degli spirits, che quindi distillati, ma non solo, che si attende un meno 33%. È innegabile che nel canale hotel, ristoranti, catering, soprattutto ristoranti, si tende a consumare vino di maggior pregio, un atteggiamento anche psicologico. Hai più scelta e tendi, l'occasione magari è un'occasione celebrativa, e tendi a spendere di più, per dire in maniera un po' brutale. Però io vorrei capire qual è la chiusura che immaginate per l'intero settore, perché è vero che il canale, diciamo, GDO, grande distribuzione, o anche negozi di prossimità, non ha l'offerta che ha di solito un ristorante. È anche vero però che sono decollate piattaforme, non voglio fare nomi pubblicità, ma le conoscono quasi tutti, molto importanti per l'acquisto del vino online, e queste rischiano di diventare poi delle tendenze strutturali, nel senso che hai scoperto la piattaforma durante il lockdown, magari continui a usarla anche dopo. Non è che c'è un problema anche nella nostra produzione vitivinicola, visto che sono tantissimi produttori italiani, spesso abbiamo detto che sono troppi per le dimensioni, che sono piccole. Non c'è un problema anche di accedere ai canali della distribuzione online, diciamo, quindi degli acquisti online? Sì, certe volte c'è anche il problema di accedere all'internet, perché non è che tutto il territorio sia coperto dalla banda larga perfettamente, quindi c'è un problema strutturale di connessione, una capacità di utilizzo di quel canale, una minore attenzione forse dedicata a quel canale finché non è arrivato all'evento pandemia, che ha radicalmente cambiato tutta la nostra vita, comprese le modalità di consumo. In alcuni casi di consumo, di effettuare le scelte. Oggi credo che sul vino sicuramente in Italia possiamo costruire molto di più, possiamo migliorare enormemente. Il problema strutturale del fatto di avere tanti produttori non sarà, e mi auguro proprio non sarà, la pandemia a modificarlo, è un dato strutturale che abbiamo. No, ma sai, io non ce l'ho con i tanti produttori, Caggiano, io ce l'ho col fatto che quando tu hai tanti produttori piccoli, perché lasciamo stare le imprese agricole, parliamo, però tanti produttori piccoli hanno anche produzioni piccole. Allora, le produzioni piccole possono andare bene, soprattutto se sono di fascia media e medio alta, perché tu, non so, producendo 20.000 bottiglie l'anno, 40.000 bottiglie l'anno, avevi prima, la stragrande maggioranza venivano già comprate dai canali che lei citava, aggiungo anche, insomma, oltre che i wine bar, anche le enoteche, i negozi che vengono. Ecco, venivano, tu avevi, non so, 10 ristoranti che erano i tuoi fornitori storici, un paio di enoteche, un paio di wine bar, e la tua produzione se n'era andata per l'anno, cioè non avevi bisogno di andare online. Mentre non avevi neanche queste grandi reti commerciali all'estero che potessero sopperire. Caso diverso quando tu produci milioni di bottiglie in su, o 800.000 bottiglie. Non vorrei che la difficoltà nell'accedere alle piattaforme fosse dovuta proprio al fatto che prima nessuno ne aveva bisogno. Non so se mi sono fatto capire, perché quando hai produzioni così limitate ti basta avere, diciamo, quei 10 acquirenti che ti prendono le bottiglie che gli servono per l'anno e tu hai chiuso. Certamente è un'analisi corretta, però ripeto, questi sono gli ingredienti, e questi sono gli ingredienti con cui il settore è cresciuto e si è affermato nel mondo. Oggi deve ripensare l'offerta, anche è difficile online, anche se c'è più spazio per presentare i prodotti, più spazio per comunicare, è difficile fare una lezione di geografia sulle varie, certo, versanti, colline delle nostre province, dei nostri comuni e delle nostre frazioni. Dobbiamo migliorare la capacità di offerta, dobbiamo consorziarci. Si possono consorziare i produttori offrendo tipologie diverse di vino, in modo che chi compra non compra un unico prodotto, ma diciamo una piccola cantinetta. Sono tutte questioni che stanno affrontando. Le stiamo affrontando in ritardo, forse sì, però è arrivato. bene è che lo affrontino, bene è che lo facciano, e soprattutto senza abbandonare quello che ha fatto crescere l'Italia anche sui mercati esteri, che è la ristorazione. I ristoranti italiani all'estero e i ristoranti in Italia sono le prime vetrine anche per gli stranieri. No, ma io voglio essere chiaro, io non penso insomma che si debba abbandonare nulla, anche perché sto cavolo di Covid prima o poi, voglio dire, ce lo leveremo dagli Zebedei, e quindi uno tornerà. Già vedo che comunque i ristoranti, un po' l'Italia la giro anche in queste settimane, non sono, cioè, il vero danno sui ristoranti è l'assenza dei turisti stranieri, diciamocela tutto, perché poi gli italiani stanno con mille precauzioni, sicuramente c'è il distanziamento dei tavoli, quindi c'è meno capienza, però io ristoranti completamente vuoti ne vedo pochi nelle città, avrò fortuna solo io nelle città in cui mi sposto anche per lavoro. Altra cosa invece sono i ristoranti che lavoravano con i turisti, anche con i turisti di passaggio, quelli insomma ristoranti che puntavano solo sulla presenza, diciamo, dei turisti nel luogo fisico, e ristoranti che lavoravano con i turisti invece più, come vengono chiamati, big spender, quindi con potere d'acquisto più alto. Non penso che dobbiate mollare i ristoranti, anche perché prima o poi torneranno i turisti, oltre che la frequentazione dei ristoranti. Senta, mi dica invece una cosa sulle iniziative, perché la moda ha cercato di unire, e cito la moda apposta, perché insomma voi siete parte del Made in Italy tanto quanto la moda e il legno arredo. Ha cercato di unire una parte in digitale con una parte in presenza fisica. Il tentativo vostro, dico come settore, non come Federvini, va nella stessa direzione, perché lei ricordava una cosa importante, che anche la capacità di raccontare, l'empatia, e la rete non te la può dare, neanche il più bel sito di vino riesce a darti una descrizione del vino quanto può darti un cameriere in sala o il gestore di un'enoteca, di un bar. È vero, però nello stesso tempo qualche degustazione a distanza si è cominciata a fare, anche con l'aiuto appunto delle enoteche, in qualche modo si può cercare di fare con la collaborazione tra i produttori. La rete non offre il calore e l'empatia immediata, però offre un po' di spazio in più per immagini, per raccontare, per far vedere, quindi diciamo che può essere una vetrina con più flessibilità e più opzioni, e comunque è il sistema a cui in questo momento ci si deve rivolgere, perché viaggiare è più complesso e spostare le persone è più complesso, quindi dobbiamo spostare il vino e dobbiamo spostare lo stimolo, il piacere, l'appeal che l'Italia può portare. Ah. Va bene, e speriamo che queste iniziative mantengano anche il rapporto, diciamo, con i clienti. Mi dici solo una cosa e poi devo andare sul traffico. La domanda invece dall'estero, chiaramente i ristoranti in alcuni paesi, però voglio dire il mondo asiatico ha ripreso, la ristorazione abbiamo visto in Gran Bretagna, in Francia chiudere alle 23, ma non è chiusa completamente, ahimè, tranne che è successo a Marsiglia, è successo adesso a Bruxelles, della chiusura totale. La domanda estera sta reggendo? Non i turisti esteri in Italia, ma la domanda estera. La domanda estera ha incontrato gli stessi ostacoli che abbiamo trovato noi in Italia, nel senso che all'estero pure ci sono stati lockdown, in Cina pure quando è partita il problema c'è stato il blocco, oggi si ricomincia, quindi la domanda è calata, l'esportazione è calata, perché ci sono stati momenti di minor flusso perché il mercato finale è rimasto bloccato. E non ci dimentichiamo che poi ci sono mercati complessissimi, vedi quegli americani dove a seconda delle giornate ci sono le preoccupazioni legate ai dazi per la disputa Boeing-Airbus, c'è il mercato inglese dove la Brexit sta creando problemi su problemi di natura amministrativa e quindi anche poi di relazioni sociali in quell'ambito, quindi anche l'estero ne risente di tutto questo, di queste tensioni e queste situazioni. Un calo sull'estero pure c'è, contiamo sull'effetto fine anno. Adesso, prima di aspettiamo con questo anch'io, di fine anno. Anch'io conto sull'effetto fine anno. Allora, grazie al direttore invece, al direttore generale di Federvini, Ottavio Caggiano. Andiamo sul traffico, poi la borsa e poi all'Italia. Ma avevate chiesto giustamente i dati, visto il record oggi di 3.600 casi, un record assoluto, non si registrava da metà aprile. I ricoverati in terapia intensiva sono 18 più di ieri, sono 337 in tutto. I ricoverati con sintomi sono 157 più di ieri, per un totale di 3.782. Allora, i numeri sono nettamente più bassi di quelli di marzo e aprile, per fortuna, e abbiamo aumentato di qualche migliaio di posti sia in subintensiva che in terapia intensiva. Però va detto una cosa, perché qua se no subito passi per negazionista. Se si vanno a vedere il numero di persone in terapia intensiva a fine agosto, a memoria mia, erano intorno alle 100 unità, quindi sono triplicate. Per fortuna stiamo tenendo i casi non a un livello francese. Andate a vedere le terapie intensive in Francia, visto che il paese è molto paragonabile a noi, siamo ampiamente sopra le 1000, che vuol dire che per quanto si tratti meglio, si intervenga prima, poi una pressione sul sistema sanitario, che è l'unica cosa che ci deve interessare di sto virus, veramente, cioè quanto va a strangolare, a soffocare il sistema sanitario in generale per la salute di tutti, non solo di chi ha contratto il Covid, un po' di pressione la si vede, perché i casi, pur sotto controllo, da rispetto a fine agosto sono triplicati. Comunque, traffico. Strade in diretta. Ben ritrovati, in questo appuntamento vediamo i maggiori disagi per incidente, code sulla A9 Milano-Como in direzione della Svizzera tra Saronno e Turate, incidente sulla 1 Milano-Napoli in colonnamenti in direzione Napoli tra l'innesto con la 15 e Terre di Canossa, e per incidente code sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova. È tutto, torneremo con nuovi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Focus Economia. Dunque, è arrivato anche il dato della Gran Bretagna, 14.000, leggermente in calo rispetto a ieri, 14.000 casi, 70 morti, e anche qui purtroppo esiste una corrispondenza tra il numero di decessi e il numero di casi, non è una corrispondenza in proporzione, non è un multiplo, non abbiamo avuto 3.700 casi e 31 morti, chiaramente la Gran Bretagna in paragone ha un po' di meno decessi rispetto ai casi, però quello che deve interessare, lo dico da chi analizza i numeri, non certo da chi vuol fare virologo, è quella che è la mediana o comunque la tendenza. La tendenza è di un aumento, seppur più contenuto, delle terapie intensive, dei subintensive, dei ricoveri. Quello, e noi in questo senso, io bisogna ricordare che siamo 18esimi per contagi quando a marzo eravamo secondi, quindi io spero che noi manterremo questi numeri. Ah, i morti economici quanti sono? Ma che cosa vuol dire sta frase? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Mi chiarisca cosa vuol dire sta frase. I morti economici quanti sono? Se saturiamo le terapie intensive e le subintensive, lei capisce che se domani ha un incidente o ha un infarto, ha qualunque cosa, rischia di morire non economicamente, ma perché poi torniamo con gli ospedali pieni. I morti economici non si curano con le medicine, si curano con le iniziative economiche, di politica economica, e andremo a vedere. Io continuo a dire che su alcuni settori bisogna continuare denaro a dare soldi a fondo perduto. Non è un problema di tamponi, ma è un problema di casi clinici. Dai, a chi mi dice facciamo 500.000 tamponi e ne troviamo 15.000, probabilmente sì, infatti a me interessano solo i ricoveri, per dirle in maniera brutale, perché sono interessato ad avere una struttura sanitaria che possa gestire anche tutti gli altri problemi clinici di questo paese. Stefania Arcudi, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Ti dico solo buonasera perché oggi è il 24, poi andiamo a commentare una giornata e un tema internazionale, vorrei un commento in generale sulle borse, poi all'Italia e Bruxelles. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Migliorare è l'attitudine che ci guida da sempre. Nuova BMW Serie 5, oggi anche plug-in hybrid e mild hybrid. Guidala da 350 euro al mese con il nuovo leasing operativo BMW Why Buy Evo, senza acquistarla e senza pensare ad altro, perché bollo, RCA e manutenzione sono inclusi. Fino al 31 dicembre, salvo approvazione BMW Financial Services. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Io ti riscalderò con la massima efficienza. Tu verrai rimborsato al 110%. Lei ti farà risparmiare sulla bolletta. Noi avremo meno impatto sull'ambiente. Ma che tempo è? È il futuro del riscaldamento. Con Daikin il futuro è già presente. Sostituisci oggi la tua caldaia. Hai sostenibilità, efficienza e la possibilità di ottenere il super bonus. Entra nel futuro del riscaldamento al 110%. Scopri come su daikin.it. Daikin. Ehi, non ti scordar di me! Mai più bimbi dimenticati in auto con Babyguard Foppa Pedretti. L'unico dispositivo antiabbandono approvato per i seggiolini auto Foppa Pedretti. Babyguard invia un allarme allo smartphone collegato con una semplice app ed è made in Italy. Imprenditore, la tua azienda non può aspettare. Riparti ora con Credimi Futuro. Il finanziamento coperto al 90% dal fondo di garanzia per società di persone e di capitali. Ottieni fino al 25% del tuo fatturato e rimborsi in 5 anni a partire dal 2021. Verifica online se la tua azienda è finanziabile. Basta la partita IVA. Ricevi la proposta in 3 giorni. Vai su credimi.com. Messaggio promozionale. Fogli informativi su credimi.com. Non sapevo avessi una Ford Kuga, ma l'avevi lasciata aperta? No, l'ho aperta con lo smartphone. E perché è accesa? Perché l'ho accesa con lo smartphone. Sì, ora mi dirai che la riscaldi anche con lo smartphone. Certo. Ah. Nuova Ford Kuga ST Line con cambio automatico, connettività sorprendente. Tua a 395 euro al mese, IVA esclusa, anticipo zero, assicurazione e manutenzione incluse. Grazie al noleggio Ford Inclusive, che è tutto di serie ed è per tutti, privati, aziende e partite IVA. Bonus casa 110%. La differenza tra chi ne parla e chi lo fa sta nell'esperienza e nei numeri. Gabetti Lab, esperti dell'abitare sostenibile. Gabettilab.it. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no. Proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo sui temi dai quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi da lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo, Spezia, so che sei bravo. State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments, il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Allora, 18:09, non risponderò più, lo dico, quindi la smettete di scrivere, dico alcuni ascoltatori, a chi continua a paragonare i morti di tumore con il tema Covid. Ne abbiamo parlato molte volte, nessuno nega, e le campagne di sensibilizzazione ci sono, c'è una piccola differenza, che non vengono intasate le terapie intensive e subintensive e che, con tutto il rispetto per una malattia gravissima come può essere un tumore, non è contagioso. Quindi smettiamola con questi esempi del Kaiser, per favore, no? Basta, usate il WhatsApp per altre cose invece che appunto per col massimo rispetto per tutte le altre patologie, ci mancherebbe. Qui stiamo parlando di una cosa infettiva che riesce a, che rischia o ha rischiato, anzi lo ha fatto a marzo e aprile, di saturare i reparti ospedalieri in terapia intensiva, subintensiva e quant'altro. Quindi basta. E nessuno sottovaluta ovviamente il tema. Abbiamo fatto decine e decine di interventi anche a Radio 24, ha seguito tutte le campagne per l'informazione e la prevenzione sui tumori, il cancro. Mm. Stefania Alcuti, giornata piatta. Vorrei capire, però, visto che insomma c'è un oggettivo peggioramento in tutti i dati che arrivano dall'Europa e anche le misure prese oggi, è arrivata a Bruxelles, la Scozia, nei giorni scorsi Parigi, Londra, la Gran Bretagna, insomma, le borse sono più interessate, diciamo, ai dati Covid o alle elezioni americane? Te lo chiedo perché il Dow Jones invece oggi guadagna l'1,5%. Ma allora, appunto, come dicevi, la seduta è stata molto fiacca. Gli investitori oggi sono rimasti un po' alla finestra, hanno guardato un po' di più alle notizie di casa nostra, l'aumento dei contagi, le possibili nuove misure restrittive anche in Italia come nel resto dell'Europa, ai dati macro non particolarmente incoraggianti che sono arrivati anche in Germania, quindi diciamo non hanno badato molto invece al rally di Wall Street, che al momento guadagna 1,5%, è ancora aperta ovviamente la seduta alla borsa americana, lì si guarda da un lato alle elezioni, dall'altro lato alle, diciamo così, giravolte di Trump sugli stimoli all'economia. Prima ha fatto saltare il banco con i democratici, poi ha chiesto al congresso degli aiuti mirati, insomma, e quindi a questo guardano le borse americane. Nel vecchio continente invece, appunto, si bada di più all'evoluzione della pandemia. Infatti Piazza Affari ha chiuso poi sulla parità, Parigi poco sotto, in calo di circa 3 decimi, Francoforte e Londra attorno appunto alla parità. Sono andati bene alcuni comparti, sicuramente il comparto auto, quello del lusso, stanno recuperando terreno. A Piazza Affari la migliore è stata Enel, che ha guadagnato oltre 3 punti, ha beneficiato in realtà di alcuni commenti di analisti, il buy, quindi invito all'acquisto da parte di Societe Generale, Mediobanca hanno spinto il titolo. E la seconda migliore non a caso è stata Ferrari, appunto, associata sia al comparto automotive sia a quello del lusso, che ha guadagnato il 2,8%. È andata invece male per contro Nexi, che ha lasciato sul campo il 5,7%, questo dopo che i fondi Mercury hanno collocato una parte della loro quota a 15,50 euro, che è un prezzo appunto dell'8% rispetto alla chiusura di ieri, ovviamente nell'ambito della fusione di Nexi con SIA. E poi appunto già ricordavi Bipper -4,20, Eni -2,70, Telecom -2,5, aggiungo io Mediobanca -2,30 come banca Mediolanum, il 2,12 lo perde Unipol, il 2% Fineco Bank. E grazie anche a Stefania Arcudi. Andiamo invece sul tema Alitalia. Ad oggi non mi risulta ancora che questo decreto per la NewCo lo aspettiamo tutti a minuti, però è evidente che l'urgenza e la emergenzialità che avevamo a maggio ce l'abbiamo ancora, non è che sia il quadro di riferimento del mercato rende ancora urgente, quindi l'appello che io faccio è quello di dare corso il prima possibile a quelle che sono le previsioni contenute nel decreto rilancio, al fine di assicurare non solo la continuità aziendale, ma anche l'innesto in un contesto che possa dare una prospettiva di investimento e di razionalizzazione dell'attività d'impresa, cosa che in amministrazione straordinaria, come ho sempre detto, è particolarmente, particolarmente difficile. Allora, questo è il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, in audizione alle commissioni, e cita il dossier aperto, cioè oltre all'Ilva e Autostrade, se ho ben capito, Gianni Dragoni, buonasera del Sole 24 Ore. Buonasera. Stanno tutti attendendo la NewCo, cioè il presidente del Consiglio Conte, se non ricordo male, o con un tweet o su Facebook aveva annunciato la nomina appunto di Caio a presidente, di Lazzarini a amministratore delegato, però poi non è mai arrivato l'ufficializzazione di questa cosa. Cos'è che sta fermando, diciamo, la creazione della NewCo? Cioè il decreto? Sono più di 3 mesi, perché l'annuncio di Conte è del 29 giugno e faceva già seguito a diverse settimane di travaglio sulla scelta dei vertici. Adesso il governo deve completare il consiglio di amministrazione, ma con posizioni che sono comunque di minore importanza rispetto ai due vertici, su cui però si esercita la pressione dei partiti di governo, 5 Stelle, PD, ma sembra da quello che riusciamo a capire un travaglio soprattutto interno ai 5 Stelle sulle posizioni. Ci sono 5 posizioni da inserire nel consiglio di amministrazione, ma il punto è che con l'annuncio di Conte della scelta di Lazzarini, direttore commerciale attuale dell'Alitalia attuale, che è stato designato poi dal capo delegazione del PD, dal ministro Dario Franceschini, i 5 Stelle hanno visto tagliato fuori quello che era il loro candidato, che è il direttore generale dell'Alitalia Zeni, il quale, Giancarlo Zeni, il quale era stato scelto un anno fa dal ministro Patuanelli, di fatto dal commissario dei 5 Stelle. E allora adesso loro vorrebbero reinserire Zeni nel consiglio d'amministrazione, con un ruolo chiaramente non senza i poteri dell'amministratore delegato, che è Lazzarini, ma questo ricrea un conflitto, perché tra gente che è stato, uno ha scavalcato l'altro, poi l'altro dopo lo riscavalca. Allora, comunque, tutto questo paradossalmente sta paralizzando. Scusami se sono brutale, ma quindi è un tema di poltrone per i 5 Stelle. Scusami la brutalità, ma non ho più tempo da perdere su Alitalia, Ilva e autostrade. Ovviamente parliamo di quello che riusciamo a captare. Sì, sono discorsi di strategia di tagli che pure ci sarebbero, perché intanto l'Italia ha chiesto il prolungamento della cassa integrazione per 6.800 per 11 mesi. Sì, c'è quello dall'Europa, invece si attende comunque un via libera, perché insomma ha detto la Vestager oggi la decisione se definire aiuti di Stato o no quelli concessi dall'Italia non è lontana. Non è lontana, sono 2 anni e mezzo che l'Unione Europea ha aperto la prima indagine, quindi forse vuol dire che ci vogliono meno di 2 anni e mezzo ancora, se dovessi fare una battuta, per decidere. Però il punto chiave sarà la nuova società, la NewCo, l'Europa, perché gli aiuti sono già stati dati, no? 1.300 milioni versati prima del Covid, quindi certamente la vicenda Covid, che ha reso necessari aiuti a destra e a manca, ha relativamente reso meno grave, ma l'abbiamo detto, perché insomma quando la Lufthansa riceve 9 miliardi, la Air France, non mi ricordo più l'ammontare, ma sempre di miliardi stiamo parlando, è chiaro che l'Alitalia in questo mare magnum di aiuti di Stato per salvare le compagnie aeree scompare in senso positivo, cioè sì, ne ha quasi un vantaggio indiretto. Infatti l'esame sarà su come che la NewCo realizzi una discontinuità economica, ha detto anche oggi la Vestager, rispetto all'Alitalia. Chiaramente questo è un discorso anche di interpretazione, perché la compagnia e le attività, le persone sono le stesse, ci sarà un ridimensionamento iniziale, ma l'azienda non è che un'altra, quindi chiamarlo discontinuità economica dipende quale sarà la richiesta formale che sarà a Bruxelles. Allora, grazie anche a Gianni Dragoni, e poi andiamo, qualcuno difende invece il ruolo dei 5 Stelle, va bene, a me interessa solo che si dia libera la NewCo, che vorrebbe dire una nuova società, e si cerchi appunto di creare una discontinuità, anche perché mantenere l'Italia con i commissari non ha più senso. Andiamo sul traffico e poi restiamo in parte in Europa, visto che ci troviamo alla Vestager, per trarre le conclusioni della trattativa a Bruxelles sul Recovery Fund. Strade in diretta. Buona serata, in questo appuntamento partiamo dalla Lombardia. Sono numerosi i disagi sulla 9 Milano-Como a causa di un incidente. Si viaggia in coda tra Origio e Turate in direzione della Svizzera. Nella stessa direzione per lavori code tra Como Centro e Como Monte Olimpino, per lavori in direzione opposta code tra Chiasso e Como Monte Olimpino. Sulla diramazione Gallarate-Gattico per lavori code tra l'innesto con la 8 e Sesto Calende in direzione della A26. Sulla tangenziale est di Milano, a causa di un incidente, si viaggia in coda tra Cascina Gobba e Rubattino in direzione Bologna. Code per incidente anche sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli tra l'innesto con la 15 e Terre di Canossa. Infine per incidente sulla 14 Bologna-Taranto, incolonnamenti in direzione Bologna tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova. Per questo appuntamento è tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Focus Economia. Allora, torna la mitica e quindi saluto subito in collegamento con noi da Bruxelles Adriana Ceretelli. Buonasera Adriana. Buonasera a voi tutti. Editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei. Allora, mentre sta entrando nel vivo la trattativa tra il Parlamento e il Consiglio europeo sul prossimo bilancio comunitario, e però andiamo un po' sui tecnicismi, la domanda è molto semplice. La mediazione tedesca, abbiamo visto nuove opposizioni da parte dei paesi frugali o fregali, come li chiamo io, a che cosa ha portato? La mediazione tedesca, dicevo in apertura, è importante sia perché la Germania è il paese che ha più potere di lobby, di convincimento nei confronti dei paesi del nord, sia perché è la presidenza tedesca in questi semestre europeo. A che cosa ha portato sul Recovery Fund? Ma secondo me ha portato al fatto che quello che si è sempre detto in senso generale, salvo poi le interpretazioni dei buonisti e dei cattivoni che davano appunto la loro versione dei fatti, oggi ci sono regole che dicono che i fondi arriveranno, che il famoso esborso del 10%... Che a noi interessava molto come paese Italia. Esatto, che ci sarà, però diciamo la prima tranche partirà, ma la seconda partirà soltanto se gli obiettivi intermedi saranno nel frattempo stati raggiunti. Quindi diciamo che dopodiché sono state cambiate un po' le regole riguardo agli investimenti e alle riforme, i tempi di attuazione che sono stati in sostanza portati al sarà possibile completare le riforme e gli investimenti entro la fine agosto del 2026. In questo modo si è dato più tempo alle riforme che originariamente erano previste in 4 anni al massimo, e si è tolto qualcosina agli investimenti che erano previsti invece in 7 anni. Ma questo, diciamo, secondo me non è non è una cosa tragica. Quello che conta invece è la questione del insistere sul rispetto degli obiettivi intermedi. Ora è noto che l'Italia non è un campione, o perlomeno non è stata finora, nell'attuazione dei suoi piani di riforme, non parliamo dei suoi piani di investimento, eccetera. Il fatto che entri in questa sorta di camicia di forza, secondo me, è positivo, perché almeno sarà costretta, se vuole i soldi, a rispettare i tempi. Però ecco, certamente questo è un fatto che i tedeschi hanno voluto, e secondo me ha giusta ragione, perché cioè non si può lasciare che l'Europa vada troppo allo sbando. L'altra cosa che hanno messo è che anche gli aspetti fiscali, cioè sostanzialmente l'indebitamento, andrà preso in conto nella valutazione dei piani. Quindi in sostanza ci dovrà essere una tabella di marcia anche per l'indebitamento. No, ma io sono contento perché, allora, parliamoci chiaro, noi abbiamo visto un dato ieri in cui vado a memoria, il 43% dei fondi che dovevamo utilizzare, che scadono fra qualche mese e poi verranno, potranno esserci ridati, non li abbiamo utilizzati. Certo. Parlo del 2014-2019, vado a memoria, anche qua potrei sbagliare di data di un anno, ma non sbaglio la percentuale. E quindi non mi fido io stesso dell'Italia, abbiamo la poco invidiabile classifica del venerdì, e dell'utilizzo che le regioni, ahimè, soprattutto del sud, non riescono a fare. E di questi mancano gli ingegneri, mancano i piani concreti, si cerca di raffazzonare piani all'ultimo minuto. E via così. Quindi, al di là della cosiddetta cabina di regia e quindi di chi avrà in mano, io spero a livello quasi commissariale, la gestione di questi fondi, a me, da italiano e anche da europeo, interessa che ci venga fatta una verifica di metà tappa o dopo la prima tappa. Sì, ma soprattutto che ci forzino a fare le cose che noi non riusciamo a fare perché abbiamo una pubblica amministrazione, una burocrazia, un sistema, una... finora scarsa semplificazione delle leggi, eccetera, che di fatto ci non solo, poi c'è tutto il problema della deresponsabilizzazione dei burocrati, no? Che per una firma temono sempre certo, il blocco della firma, certo. Eccetera. Adesso col decreto semplificazione qualcosina si è mosso. Un pochino migliorata, però diciamo che l'ingessatura del sistema Italia è tale per cui noi siamo in decisa difficoltà, ma avendo un pungolo di questo tipo io spero che ci daremo una mossa, lo spero, perché ma anche perché a quel punto è veramente pericoloso per il paese. A quel punto anche avrei un prezzo politico da pagare, voglio dire, noi ne parliamo sempre dei soldi non utilizzati, però poi politicamente non c'è mai nessuna regione che abbia pagato per questo. Altra cosa, se un governo poi si vede messo tra virgolette non in croce ma sotto i riflettori perché non è riuscito a utilizzare questi soldi, spero che vi sia anche un prezzo politico per questo, in modo da spingere e pungolare chi ha il potere per utilizzarli. In cambio però, per concludere Adriana, noi abbiamo ottenuto, tra virgolette, abbiamo avuto la conferma, che non è una cosa da poco, che il 10% del totale possiamo già scontarlo nella manovra dell'anno prossimo? Ma in teoria sì, cioè, io dico in teoria sì, perché allora la data di scadenza ultima per presentazione del piano è il 15 aprile, però io ricordo che i grandi paesi, Germania, Francia, oggi la Spagna, tutti hanno presentato già la loro tabella di marcia e il loro cosa. Noi siamo ancora qua a dire sì sì, adesso discutiamo, vediamo, facciamo. Per cui certo che potremo avere il 10% e quasi certamente l'avremo, però dovremo presentare un programma che deve essere promosso dall'Europa e poi anche dagli Stati membri, non ci dimentichiamo, anche se non ci sarà magari il diritto di veto, ma comunque sia ci sarà un voto sul nostro programma. E quindi dobbiamo superare quell'esame lì, una volta superato noi potremo avere questo 10%. Però dobbiamo anche capire che dopo ogni tranche sarà soggetta appunto alla verifica del raggiungimento dei vari obiettivi. È una cosa seria. Quindi è una cosa molto seria, perché diciamo quei 209 miliardi sono là, ma sono teorici fino a quando noi non dimostreremo. Sì, soprattutto gli 81 miliardi, gli 81 miliardi a fondo perduto, perché adesso qualunque persona. Io non ho un grande amore per i paesi fregali, però oggettivamente non si può neanche chiedere all'Europa di darci 81 miliardi, che poi sono meno se levi i contributi che diamo all'Europa, ma insomma sì, di darci dei miliardi, qualche decina di miliardi, a fondo perduto, senza neanche verificare come li usiamo. No, ma certo. Chi mi dice, lei non perde occasione per attaccare il Sud, guardi, vado a chiudere nel ringraziare Adriana Cerretelli da dove siamo partiti. I numeri hanno una testa dura, vado a vedere l'utilizzo della regione Calabria, Sicilia, Campania, in parte anche Puglia, dei fondi comunitari di questi anni, non è una mia obiezione. A chi mi dice, allora mi dica quali sono le terapie intensive che si stanno saturando, vedo che non ha capito nulla del ragionamento che abbiamo fatto, non glielo dico perché per fortuna non ci sono e spero di non dirglielo mai, è lì che non dobbiamo arrivare. Comunque noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.